Storie italiane. Il Cavaliere Verde. C'era una volta, nel grande regno di Caplon, il re Duster. Il re Duster aveva una sola figlia, chiamata Rachel, ed era cara a lui più di qualsiasi altra cosa al mondo. Tutti coloro che la vedevano erano certi che sarebbe divenuta bella e affascinante come sua madre, che era morta dandola alla luce. Alla principessa Rachel spesso mancava sua madre e il re lo sapeva. Era dispiaciuto per lei. Un giorno, vicino al palazzo del re, vennero a vivere una nobile signora di nome Lady Trish e la sua bambina, Vonta. Vonta aveva più o meno la stessa età della principessa Rachel. La principessa Rachel e Vonta presto divennero amiche e Lady Trish stava nel palazzo la maggior parte del tempo a prendersi cura delle due ragazze mentre giocavano. Lady Trish era molto gentile con la principessa e la trattava con amore. La principessa Rachel e Vonta giocavano insieme e crebbero insieme. Tutto andava bene nella vita della principessa. Fino a quando un giorno, mentre camminava nei giardini del regno, Lady Trish venne da lei vestita da viaggio. Dove vai? Addio, bambina mia. Devo lasciarti andare lontano. Cosa? Sì. E quando tornerai? Temo mai. No! Per favore, non andare. Cosa farò senza di te? Mi spezza il cuore, cara bambina. Ma devo andare. Non c'è niente che possa tenerti qui? Solo una cosa. E questa è impossibile. Niente è impossibile. Dimmi di cosa si tratta e mi assicurerò che venga fatta. Potrei rimanere solo se tuo padre mi facesse la sua regina. Ma non lo farebbe mai. Tutto qui? Lascia che ci pensi io. La principessa Rachel andò immediatamente da suo padre. Padre, sono venuta per chiederti di sposare Lady Trish. Se non lo farai, ci lascerò. E io sarò privata dell'amore materno ancora una volta. Per favore, sposala, padre. Le voglio molto bene. Re Duster impallidì quando sentì questo. Non gli piaceva la contessa e non voleva sposarla. Ma aveva promesso a sua moglie morente che avrebbe sempre fatto ciò che sua figlia gli avesse chiesto. Non voglio sposarla, figlia mia. Ma se questo è ciò che ti renderà felice, allora sono d'accordo. La principessa Rachel ne fu entusiasta. Grazie mille, padre. Sei il migliore. In poco tempo, il matrimonio fu celebrato con grandi festeggiamenti e la contessa divenne regina. Ma, nonostante tutta la gioia che riempiva il palazzo, il re sembrava triste, poiché era certo che il matrimonio avrebbe portato qualcosa di negativo. Ed è esattamente quello che successe. In brevissimo tempo, i modi di Lady Trish verso la principessa iniziarono a cambiare. Era gelosa di lei perché lei, invece di sua figlia, era l'erede al trono. Presto il suo vero carattere emerse. Invece di parlare gentilmente e amorevolmente alla principessa, le sue parole divennero rudi e crudeli. Quello che indossi è un bel vestito. Voglio che tu lo dia a Vonta, subito. Ma, mamma, adoro questo vestito. Non mi interessa. Io sono la regina, non dimenticarlo. Adesso vattene. Il comportamento della regina nei confronti della principessa peggiorava ogni giorno che passava e presto la principessa non poté più sopportarlo. Era triste e turbata tutto il giorno e piangeva nella sua stanza. Il re era molto infelice nel vedere soffrire la sua amata figlia e non poteva più sopportarlo. Decise di costruirle un castello sull'isola nel lago. Ecco, il tuo castello, tutto tuo. Vivi qui felicemente, lontano dalla tua matrigna. Qui potrai fare quello che vorrai e io farò in modo che la tua matrigna non entri mai. Grazie mille, padre. Promettimi che verrai a trovarmi ogni giorno. Questo è ovvio, amore mio. La principessa abbracciò suo padre. Per molto tempo visse in pace, diventando sempre più bella ogni giorno che passava. Un giorno, un messaggero del regno vicino venne ad invitare il re Duster ad un grande incontro di cavalieri e nobili. Re Duster accettò l'invito. Prima di partire, andò a salutare sua figlia. Amore mio, vado al grande incontro di cavalieri e nobili. Verranno allestiti splendidi negozi, soprattutto per principesse come te. C'è qualcosa che posso prendere per te da lì? Non voglio niente, padre. Ma se salutassi il Cavaliere Verde da parte mia, te ne sarei grata. Certo, amore mio. Lo farò. Re Duster non aveva mai sentito parlare del Cavaliere Verde, ma non c'era tempo per fare domande. E quindi le diede la sua parola e si mise in viaggio. Mentre era in viaggio, chiese a tutti quelli che incontrava del Cavaliere Verde. Conosci il Cavaliere Verde? Ma la risposta era sempre no. Il re Duster iniziò a credere che sua figlia si sbagliasse sull'esistenza del Cavaliere Verde. Era triste che, la prima volta che lei gli chiedeva di fare qualcosa, lui non era in grado di soddisfarla. Era così assorto nei suoi pensieri che non si accorse di quale direzione avesse preso il suo cavallo. E in un momento si ritrovò in mezzo ad una fitta foresta dove non era mai stato prima. Continuò ad andare avanti e indietro cercando il sentiero. Alla fine, con sua grande gioia, vide un uomo. Si avvicinò a lui. Mi sono perso. Puoi dirmi dove sono? Sei nella foresta del Cavaliere Verde? Re Duster ne fu entusiasta. Dove vive il Cavaliere Verde? Oh, non lontano da qui. L'uomo gli spiegò la strada. Re Duster lo ringraziò e proseguì. Alla fine raggiunse un bellissimo castello in mezzo ad un grazioso giardino pieno di fontane di marmo. Sul bordo di una conca di marmo sedeva un uomo giovane e bello, che era vestito dalla testa ai piedi con un'armatura verde. Re Duster gli si avvicinò. Devi essere il Cavaliere Verde. Sì, mi chiamano così, perché sono sempre vestito di verde, ma il mio vero nome è Eugenio. Sono così felice di averti finalmente trovato. Stavo andando al grande incontro di cavalieri e nobili, ma ho perso la strada per cercare di trovare il tuo palazzo. Come mai mi stavate cercando, signore? Beh, sono venuto per portarti i saluti di mia figlia. Non ho mai incontrato te o tua figlia prima d'ora, ma siete il benvenuto a passare la notte nel mio palazzo. Il sole sta tramontando e non è consigliabile tornare indietro attraverso la foresta. Re Duster ne fu grato e accettò l'invito. La mattina dopo, quando Re Duster stava per iniziare il suo viaggio verso casa, il principe Eugene gli mise in mano uno scrigno. Altezza, per favore, portate questo dono a vostra figlia. Contiene il mio ritratto e quando verrò a trovarla, lei mi riconoscerà. Sono certo che è la donna che ho visto notte dopo notte nei miei sogni. Devo farla diventare mia moglie. Il re diede la sua benedizione al cavaliere e promise di portare il dono a sua figlia. Con ciò partì. Quando raggiunse il suo palazzo, la principessa Rachel corse verso di lui. Hai visto il Cavaliere Verde? Sì, l'ho visto. E il suo vero nome è Principe Eugenio. Principe Eugene? Wow! Mi ha chiesto di darti questo dono, in modo che tu sappia riconoscerlo quando arriverà. Quando la principessa vide il ritratto, ne rimase deliziata. È davvero l'uomo che ho visto nei miei sogni. Padre, non sposerò nessuno tranne lui. Va bene, se è quello che desideri, amore mio, ma ti suggerirei di incontrarlo prima. Nel frattempo, assicurati che la tua matrigna non lo scopra. Molto presto il principe Eugene arrivò. Ed era così bello nella sua armatura verde. La principessa se ne innamorò ancor di più. Quando lui la vide, riconobbe subito la donna che aveva tanto sognato e le chiese immediatamente di diventare sua moglie. Mi vuoi sposare? La principessa abbassò lo sguardo e sorrise. Sì! Si abbracciarono. Proprio in quel momento, la principessa Rachel ricordò il consiglio di suo padre. Ma ascolta! Dobbiamo tenere questo segreto dalla mia matrigna fino al giorno del matrimonio, altrimenti troverà un modo per rovinare tutto. Come desideri, ma non posso starti più lontano. Fino al giorno del matrimonio ci vedremo ogni giorno. Verrò la mattina presto e me ne andrò quando sarà buio. In questo modo la tua matrigna non ci scoprirà mai. Nei giorni successivi, il principe Eugene visitò la principessa ogni giorno. Passavano molte ore a passeggiare negli splendidi giardini, dove sapevano che la regina non poteva vederli. Un giorno, una ragazza che stava camminando sul lago, la mattina presto, vide il principe remare verso il castello della principessa, dove lei lo stava aspettando. Presto andò dalla regina e le disse tutto. La regina divenne furiosa. Il giorno seguente, la mattina presto, la regina scese sulla riva del lago con una boccetta di pozione magica e si nascose dietro un albero. Il principe Eugene venne come al solito. Trascorse la giornata con la principessa Rachel e quando fu quasi buio andò sulla riva e si sedette sulla barca. Ignaro del fatto che la regina aveva applicato la pozione magica su tutto il manico del remo, lo impugnò e iniziò a remare. Ah! È così caldo. Con la pozione magica su tutte le mani, il principe Eugene si asciugò la fronte. La pozione si mescolò presto sulla sua pelle, che lentamente iniziò a diventare verde. Quando il principe Eugene raggiunse il suo palazzo, si sentì molto male. Nei giorni successivi, la principessa Rachel attese il principe Eugene, ma lui non venne perché era malato. Ma lei non lo sapeva. Si sentì impotente poiché anche suo padre era lontano dal regno per visitare gli altri re per motivi di lavoro. Sentendosi molto triste, si sedette vicino alla finestra aperta, piangendo. Proprio in quel momento arrivò un uccellino e si sedette sul ramo dell'albero che si trovava lì. Il tuo principe è malato! Devi andare da lui immediatamente! Cosa? Cosa gli è successo? Non c'è tempo per una spiegazione. Sappi solo che la tua matrigna cattiva ha usato una pozione magica su di lui e solo le erbe gialle del tuo giardino possono salvarlo. Dimmi di più, per favore. Vestiti come un'infermiera del palazzo del Re Country. Solo in questo modo ti sarà permesso di avvicinarti al principe. Prepara una zuppa con le erbe gialle e tagliela. Quando avrà finito la ciotola, si riprenderà all'istante. Il giorno dopo, la principessa Rachel se ne andò la mattina presto vestita da infermiera, portando con sé le erbe gialle. L'uccello le volò davanti per guidarla verso il palazzo. La principessa Rachel andò subito dalla vecchia infermiera, la più fidata del principe. Signora, mi chiamo Fiona e sono stata inviata dal Re Country per aiutare nella guarigione il principe. E come intendi farlo? Se anche i nostri migliori medici hanno fallito, la pozione è fatale. Mi spezza il cuore dire che nessuno può aiutare il principe. Oh, ma io posso. Vedi, con la mia zuppa di erbe, il principe si riprenderà subito. E perché dovrei fidarmi di te? Hai altra scelta? La vecchia infermiera pensò che valesse la pena provare. Così accettò. Va bene, puoi andare nella stanza del principe con la zuppa. La principessa Rachel diede da mangiare al principe malato con le proprie mani. Dopo aver finito l'intera ciotola di zuppa, uscì fuori e aspettò un pochino. Presto, il principe Eugene iniziò a sudare e in pochi istanti si riprese completamente. Quando si svegliò, la principessa Rachel mandò dentro una giovane infermiera con la scodella vuota di zuppa in mano. Chi sei? Sei tu che hai preparato la zuppa che mi ha curato? Sì. Beh, scegli quello che desideri come ricompensa e lo avrai. Rachel aveva spiegato alla giovane infermiera che cosa dire. Voglio essere la tua sposa. Mi spiace, ma questa è l'unica cosa che non posso concederti, perché il mio cuore appartiene alla ragazza più bella del mondo e lei mi aspetta nel suo palazzo sull'isola. Sentendo questo, la principessa Rachel corse nella stanza del principe e lo abbracciò forte. La giovane infermiera sorrise e se ne andò. Il principe era felice di vederla, ma anche confuso. Cosa sta succedendo? La principessa Rachel gli spiegò di come la sua matrigna gli avesse dato una pozione magica per farla ammalare. Ah! Sono così felice che tu mi abbia salvato, amore mio. Sono felice che tu stia bene. I due si tennero per mano e si abbracciarono di nuovo. Presto si sposarono con un bellissimo matrimonio. Il re Duster fu felice di vedere che sua figlia era contenta. E per quanto riguarda la regina e sua figlia, le cacciò via dal regno, dicendo loro di non mettere mai più piede nel suo territorio. Il principe Eugene e la principessa Rachel vissero nel loro palazzo sull'isola, aiutando il re Duster a gestire il suo regno. Con loro, il popolo del regno era molto, molto felice.